GR Europa. Le riforme introdotte negli ultimi anni in Ungheria sollevano grande e persistente preoccupazione, quindi l'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa deve aprire una procedura di monitoraggio. Questa è la raccomandazione fatta dalla stessa Commissione, che ha il compito di valutare se gli Stati membri stiano rispettando tutti gli obblighi imposti dal Consiglio d'Europa per quanto riguarda democrazia, diritti umani e Stato di diritto. Nella raccomandazione, che adesso dovrà essere votata in una delle prossime sessioni plenarie da tutta l'Assemblea, si sottolinea che la preoccupazione riguardi varie leggi introdotte che per il loro numero e accumularsi hanno lo scopo di creare un controllo politico su tutte le istituzioni chiave e allo stesso tempo di indebolire il sistema di verifica e bilanciamento tra i diversi poteri dello Stato. La Commissione Affari Giuridici del Parlamento Europeo ha espresso parere contrario al mantenimento dell'immunità per Gabriele Albertini nella causa per risarcimento danni intentata contro l'ex sindaco di Milano dal magistrato milanese Alfredo Robledo, titolare dell'inchiesta sui derivati acquistati dal Comune di Milano nel 2005. Le paure dei paesi del nord dell'Europa per le conseguenze della libertà di circolazione dei lavoratori e del cosiddetto turismo del welfare di chi emigra solo per sfruttare i benefici dei paesi più ricchi sono ingiustificate, basate su paure inflazionate e motivate da dibattiti infiammati da motivi di politica interna. Questa è la posizione espressa dal commissario europeo per il lavoro, László Andor, che con riferimento alla lettera inviata ieri da Regno Unito, Germania, Olanda e Austria per chiedere restrizioni, ha affermato che le cifre sono inflazionate e lontane dal vero. Il patron della squadra della Steaua di Bucarest aveva dichiarato che mai avrebbe ingaggiato un calciatore omosessuale ed ora toccherà proprio alla sua società dimostrare di non aver seguito politiche discriminatorie nelle assunzioni dei giocatori. Questa è in sintesi la conclusione cui è giunta la Corte di Giustizia dell'Unione Europea dopo essere stata chiamata a pronunciarsi sull'applicazione della direttiva sulla parità di trattamento dei lavoratori nell'ambito di un procedimento in corso in Romania. Bene, con questo abbiamo concluso l'appuntamento e la settimana di GR Europa, che torna come sempre da lunedì a partire dalle 15. GR Europa è sostenuto dal Parlamento Europeo. Info su radio24.it.